Le 14 in punto, 87.9 la modulazione di frequenza, questa è Radio Onda Rossa, dal 1977 libera da padroni e pubblicità, la voce dei senza voce, la radio di chi se la sente, potete contribuire a farla vivere e uno dei modi è la sottoscrizione sul numero di conto corrente postale 61804001 da intestare a Radio Onda Rossa, via De Volsci 56 00185, Roma. Questo è Visionari, l'appuntamento con il cinema, tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Per saperne di più potete ascoltarci in diretta ma anche in streaming, perché sul sito internet della radio, che è ondarossa.info, sull'home page c'è l'opzione ascolta alla diretta. Per quanto riguarda la scaletta e tutte le informazioni, potete consultare anche la pagina Facebook di Visionari. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. La copertina di questa settimana l'abbiamo dedicata al film, a un fotogramma, a una foto di scena del film Wild, di cui volevamo parlare in questa puntata, che dato che il film esce proprio oggi, però probabilmente riusciremo a farlo solo la settimana prossima, perché per quanto riguarda la distribuzione italiana quest'oggi erano piuttosto impegnati e quindi non ce l'avrebbero fatta a fare un collegamento con noi, quindi rimandiamo a giovedì prossimo. Marco Pontecorvo, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, ciao a tutti. Come stai? Bene, bene, un po' in tensione naturalmente perché oggi c'è l'uscita e quindi spero che vadano in tanti, eccetera eccetera, quindi. Allora, chiaramente stiamo parlando del tuo film Tempo Instabile con Probabili Schiarite. Noi ci eravamo sentiti un annetto fa per la proiezione al Teatro Valle Occupata di Ogro, di papà Ogro, il sì. Film di tuo papà Ogro, di cui ricorreva l'anniversario, un importante anniversario. E quest'oggi, per parlare di questa tua uscita in sala, per chi ci ascolta, chiaramente diamo alcune indicazioni di trama, Marco. Assolutamente. Allora, siamo innanzitutto al confine tra le Marche e la Romagna, proprio al confine, siamo a Pesaro, più o meno come zona, ma in realtà è un paesino molto più piccolo, inventato, che si chiama Sant'Ugo, girato poi lì a Cagli, che è un po' più dentro rispetto a Pesaro, un paesino molto carino, e c'è una cooperativa di divani sull'orlo della bancarotta, con due, diciamo, che di quelli che l'hanno formata, del comitato direttivo della cooperativa, che sono Lillo Petrolo, di Lillo e Greg, e Luca Zingaretti. Sono due amici da sempre ma molto diversi. Uno, diciamo, che rappresenta un po' un imprenditore leggermente di sinistra ma più spregiudicato, sempre un po' pronto a tutto, e l'altro molto più legato, Lillo, agli ideali, a una correttezza, eccetera eccetera. Però devono portare avanti in fondo questa unione tra di loro, che ha sempre funzionato proprio per questo motivo, anche per la loro diversità, si completano, e scavando per nascondere dei fusti, nuova idea di, appunto, di Zingaretti, che è più spregiudicato, dice: intanto li nascondiamo invece di spendere i soldi per riciclarli, poi quando abbiamo i soldi li ritiriamo fuori, ma intanto paghiamo gli stipendi. Scavano, pensano ad aver rotto la fogna nel loro giardino circostante il capannone della loro cooperativa, e invece dopo scopriranno che era una pozza di petrolio. Ci sarà, non ci sarà, è quello che si domandano loro per un po' di tempo, ci sta da prendere delle decisioni, su questo si dividono, si scontrano, sono le due diverse idee, le due diverse posizioni, il paese viene trascinato, e ci sta un ingegnere, John Turturro, che aiuterà e li guiderà un pochettino attraverso queste turbulenze create dal petrolio. Più o meno è questo. Carolina Crescentini è la contabile, detta Tabellina, molto divertente, della cooperativa. Lorenza Indovina è la moglie di Lillo, e poi ci sta un rapporto, che era un altro dei temi che mi interessava, generazionale, tra Lillo e suo figlio, che si vogliono molto bene, però non riescono a trovare un territorio comune nel quale dialogare. Il figlio è un amante di manga e li disegna e li inventa pure, quindi un mangaka, e il loro rapporto ho deciso un pochettino di farlo vedere tutto attraverso gli occhi del figlio, che lo rappresenta con delle inserzioni manga all'interno del film. Più o meno credo di aver dato un quadro totale, più o meno l'ultima cosa è una commedia all'italiana, diciamo, nel senso non è una commedia comica, come, perché ora commedia significa gag, e c'è più di ispirazione al vecchio tipo di commedia, in cui è una commedia di situazioni e di cose in cui i personaggi si trovano in in posizioni che non vorrebbero avere e per questo divertenti. Allora, intanto grazie per le indicazioni di trama, perché io ancora non ho avuto modo di vederlo, ma mi incuriosiva parecchio la storia, quindi ho detto parliamone sicuramente in trasmissione. Marco, a proposito di ispirazioni, volevo chiederti come viene fuori l'idea. Ma guarda, ti dicevo prima, c'erano un po' di temi, il ribaltamento dei valori, cioè ciò che ci sembrava un valore importante, tipo l'onestà, o altre cose che sono totalmente, insomma, abbastanza ribaltati nella nostra Italia, e appunto questi due personaggi sono l'espressione di questo. Poi un altro tema che mi sentivo molto era i rapporti tra generazioni e quanto noi crediamo nella generazione successiva alla nostra, che poi è il nostro futuro, quindi cominciare a dire, come spesso a volte si dice, ma lo dicono anche nel film, questi sono tutti coglioni perché li vedi diversi da te, li vedi appunto che si perdono la giornata dietro ai manga o che stanno dietro ad altre cose che magari a noi sembrano sbagliate, ma in realtà, insomma, bisogna anche avere la capacità forse di vederli, capirli, parlarci e indirizzarli, perché il nostro compito è non dargli solo del diverso coglione eccetera eccetera. E quindi questo era un altro dei temi, i valori, tra cui l'onestà, amicizia, gli ideali che si sono un po' anche lì sono caduti, ribaltati, dimenticati, eccetera eccetera, e rapporti generazionali erano tra i temi più importanti che mi giravano un pochettino, e poi dove e come un pochettino anche lì, sempre però fa parte degli ideali, la sinistra si stia staccando da quello che era la sinistra che possono aver vissuto i nostri padri. Ecco, la storia e le sue articolazioni, anche l'ambientazione in provincia, come sono state partorite? Ma guarda, l'ambientazione in provincia della cosa era perché volevo un episodio paradossale per inquadrare questi temi di cui ti ho parlato, ma inquadrarli in una versione di più ironica, più leggera, più con uno sguardo che gli togliesse magari la pesantezza che in questo momento il pubblico non vuole neanche avere, cioè ti scontri col fatto che tu vuoi parlare a volte di delle cose, ma che il pubblico è saturo e soprattutto a volte non ne vuole sentir parlare drammaticamente, diciamo, e quindi ci voleva un posto dove un episodio paradossale come quello di trovare il petrolio fosse credibile. Allora la Romagna comunque e anche lì l'Adriatico, cioè, ma tutta sull'Adriatico, nel mare stesso, ma anche da quelle parti fino alla Basilicata sono stati trovati comunque credo che in Basilicata ci sia il giacimento più grosso d'Europa, difficile da estrarre ma esiste. Quindi il petrolio in fondo c'è. Poi mi sembrava giusto, doveva essere la provincia, perché questa storia non poteva nascere e vivere al di fuori di un piccolo paesino. Il discorso della sinistra, quindi volevo che fosse una terra di sinistra, perché mi ricordo quando cominciavamo a scrivere, fu la prima vittoria in Emilia Romagna per esempio della Lega, e cominciava a scendere in giù, ho detto ma come le terre di sinistra, quanto stanno cambiando, quanto sta cambiando anche lì la mentalità, e quindi mi sembrava giusto. Le Marche e l'Emilia Romagna sono, e lì stiamo sul confine, un posto giusto. Io avevo visto a Pesaro una zona industriale incredibile, purtroppo quasi tutta chiusa, cioè ce n'è ancora tanta, però era molto più sviluppata prima, e quindi la crisi, ed ecco perché è nato tutto l'altro. Tra parentesi, mi faceva anche, a me piace molto il dialetto di là, e quindi mi faceva sorridere, mi piaceva l'idea che i manga giapponesi, le strisce di cui ti ho parlato, avessero un dialogo in questa un pochettino così, insomma, che è quello che si sente là, oppure con ostia, cioè esclamazioni, e l'austerità contro il calore di quel dei manga giapponesi, con il contrasto di quella parlata, mi faceva anche ridere, mi sembrava giusto per raccontare questa storia. Bene. Marco, in quante copie esce? Dunque, dovrebbe essere una novantina, dovevano essere 100, però c'è l'assalto a Forte Apache, soprattutto anche, cioè, siamo andati, credo, siamo riusciti a difendere meglio nel centro, allargato, centro-sud allargato, insomma, diciamo fino a un po' più in alto di Roma, di sicuro, almeno fino a, credo, in Toscana, Emilia. Poi abbiamo un pochettino perso i colpi, ma li abbiamo in tutte le città più importanti, contro i grossi colossi che sono, in questo weekend esce Fast and Furious, Into the Woods, italiani esce Placido, quindi erano grandi scogli da combattere. Insomma, abbiamo perso forse una decina di sale, ma non è detto che nel secondo weekend non le recuperiamo, quindi vediamo, speriamo bene. Comunque una 90 sale è una bella uscita, bella uscita, sì. Marco, io ti ringrazio, è stato un piacere, a risentirci presto a questo punto. Speriamo, allora veditelo, andate dal cinema tutti quanti il prima possibile, perché oramai ti giudicano dopo un secondo e mezzo e quindi, cioè, non è come una volta, era molto più tranquilla la cosa, perché c'era il tempo quasi del passaparola. Ora il primo weekend è molto importante per dare un segnale a tutti quanti, quindi andate, la gente, per adesso quelli che l'hanno visto escono comunque contenti, come mi ha detto l'altro giorno, sono uscita, ho riso e mi sono commossa. Beh, meglio di così, ti ho risposto. Che cosa vuole? Va bene, allora grazie tante, andate al cinema. Un abbraccio, ciao Marco. Grazie, ciao. Bene, questo era Marco Pontecorvo, regista del film Tempo Instabile, con probabili schiarite, in uscita in sala oggi giovedì 2 aprile 2015. Ritroviamo Gianluca Arcopinto, il produttore Gianluca Arcopinto, per parlare con lui della nascita dei laboratori del collettivo Mina di Scampia, e sarà presentata questa iniziativa al Chino qui a Roma oggi giovedì 20 aprile, questa sera. Gianluca, ben ritrovato a Visionari. Ciao a tutti. Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Allora, facciamo qualche passo indietro per chi ci ascolta e magari si è perso le puntate precedenti, anche perché questo tuo lavoro lo stiamo seguendo tappa a tappa un po', a volte facciamo anche le presentazioni insieme. Allora, sì. Il progetto a Scampia, l'esperienza di Scampia, raccontiamola brevemente, come l'hai vissuta, Gianluca? Ma tutto è cominciato facendo Comorra, la serie, io facevo l'organizzatore, per cui mi sono trovato a mediare con il territorio, a diventare piano piano amico, tra virgolette, del territorio, e quindi quando si è trattato di intavolare una trattativa con la produzione per trovare un accordo di buona vicinanza, e si è deciso di chiedere un aiuto nel mettere in piedi un laboratorio di cinema a Scampia, io ero lì, ero in prima linea, ero con il territorio ormai, e quindi da lì è iniziato tutto. Abbiamo fatto un laboratorio, 5 laboratori che hanno prodotto 5 cortometraggi che Sky ha mandato in onda prima della messa in onda della serie Gomorra, e poi dopo da lì la cosa è piaciuta, ci è piaciuta, e quindi abbiamo deciso di alzare il tiro, per cui in questo momento sono in piedi 2 laboratori, uno a Scampia e uno a Roma, ma l'idea è quella di portare questa esperienza in tanti altri posti d'Italia. Ecco, noi quando ci avevamo sentiti e anche frequentati nelle presentazioni del tuo libro, ma anche dell'esperienza a Scampia, e quei 5 cortometraggi erano già una realtà, e lì a volte li proiettavamo anche. Ecco, dalla nascita di questi 2 laboratori, che è roba più recente di adesso, questi giorni, come si è sviluppata, Gianluca? Allora, l'idea è semplice, complessa e difficilissima allo stesso tempo, nel senso che noi facciamo dei laboratori che hanno per oggetto la realizzazione di un film, che può essere un corto ma anche un lungo. Sì. In questo momento a Napoli si sta scrivendo la sceneggiatura di un film di finzione lungometraggio, e a Roma la scaletta di un documentario narrativo anch'esso lungometraggio. Perché l'idea del laboratorio è mettere insieme un gruppo di ragazzi di percorrere tutto il percorso che si fa per fare un film, appunto dall'idea fino alla realizzazione, cercare sul mercato il denaro per fare il film, perché fra l'altro i laboratori sono totalmente gratuiti da parte di chi partecipa, e quindi un modo diverso di fare poi fondamentalmente sempre lo stesso lavoro, cioè quello di produrre dei film, questa volta che nascano dal territorio, che nascono dai territori, che nascono da chi vive i territori, da chi li vive, col supporto chiaramente di professionisti che li aiutino a realizzare le loro storie. Ecco, facendo sempre un passo indietro, rispetto al primo laboratorio a Scampia, com'era stata la risposta soprattutto dei giovani coinvolti? A Scampia ci fu all'inizio un grandissimo entusiasmo, non c'erano solo ragazzi di Scampia, c'erano anche ragazzi di tutta Napoli. Sì. Perché comunque era una cosa per loro importante in quel momento, anche in contrasto all'immagine negativa che viene da Gomorra per quanto riguarda Scampia e per quanto riguarda Napoli in genere. E sull'onda di quei laboratori noi abbiamo proseguito con il nuovo laboratorio di Napoli, per cui ci sono alcuni che escono da quel laboratorio che sono entrati nel nuovo, e ci sono alcuni altri nuovi inserimenti. A Roma è completamente diverso il discorso, perché io ho voluto appoggiarmi ai ragazzi che avevano occupato il Cinema America, per cui abbiamo dei ragazzi molto più giovani, ci sono 4 minorenni nel gruppo di 9 che compongono il laboratorio di Roma. È una tipologia di persone completamente diversa, ma l'idea di questi laboratori non è appunto solo di andare a smuovere le acque in territori di confine, diciamo così, ma anche appunto andare a trastevere da dei ragazzi che hanno chiaramente una visione un po' diversa da quelli che possono avere dei ragazzi di altri posti dove andremo. Però appunto l'idea è questa, e devo dire che io sono abbastanza contento, perché comunque stiamo lavorando con 2 gruppi molto diversi, però che danno dei risultati molto incoraggianti entrambi. Ecco, dicevi per esempio della partecipazione gratuita per i laboratori. Restando a Scampia, come è gestito, chi è a gestirlo materialmente il laboratorio, e come sarà strutturato? Dunque, noi il laboratorio innanzitutto ha una sede nell'Officina delle Culture Gelsomina Verde. Sì. Che è una ex scuola data in, diciamo così, gestione da parte del comune a Resistenza Antica Morra, che è un'associazione attiva sul territorio. Il collettivo Mina è formato appunto da Resistenza Antica Morra, dal Comitato Verde di Scampia, da Insurgenzia, che è un altro gruppo attivo nell'area nord di Napoli, e da me, e dal fratello di Gelsomina Verde, che dà per certi versi il nome sia chiaramente alla scuola, perché appunto si chiama Officina di Cultura Gelsomino Verde, sia al laboratorio, perché il laboratorio il collettivo Mina si chiama Mina in onore di Gelsomina Verde, che è una ragazza che è stata uccisa nella faida di Scampia del 2004 a 21 anni, vittima innocente. Mm-hmm. E la struttura, cioè l'organizzazione è molto semplice, nel senso che ci sono un gruppo di ragazzi, sono stati per certi versi selezionati dalle associazioni stesse del territorio e che fanno parte del collettivo Mina, che in questo momento stanno scrivendo una sceneggiatura come si scriverebbe in qualsiasi altro contesto, cioè, sì. Ci sono delle riunioni di sceneggiatura, cioè, sono 4-5 persone più attive, un altro paio che vanno un po' più, diciamo, a ricaduta. Poi arriverà un momento in cui la nostra sceneggiatura verrà considerata finita. Io nel frattempo sto cominciando già a cercare di capire quali alleati avere per realizzare il film, e poi cercheremo di realizzare il film. La cosa fondamentale che va ricordata è che tutti i laboratori del collettivo Mina, per tutti i laboratori ho chiesto il sostegno ad alcuni produttori più grandi di me, per cui in questo momento il collettivo Mina può fare i laboratori anche perché è sostenuto da BB Film, Cinema 11, Fandango, Indigo Film, Lucky Red, Lotus e RC, quindi sono 7 produttori che per certi versi, devo dire anche con molta onestà, per farmi quasi, cioè, fidandosi fortemente di me, mi hanno appoggiato in questa avventura, hanno investito una piccola cifra che però ci consente di fare i laboratori gratuitamente. Sì, sì, sì. Non ci consente di fare i film, ma quelli dovremmo essere noi all'interno del laboratorio bravi a trovare le energie per farlo. Mm-hmm. Gianluca, vi siete dati già dei tempi? Avete delle scadenze? No, l'impegno che ho preso con tutti, da cominciare dai produttori che ci sostengono a tutti gli altri, è di fare 4 laboratori, cioè quindi 4 film, non necessariamente tutti lungometraggi, in 2 anni. Per cui l'idea è questa, abbiamo iniziato veramente a dicembre dell'anno passato a fare i primi incontri per i laboratori, per cui ecco, l'idea è quella di riuscire a finire 4 film entro la fine del 2016. Mm-hmm. Poi nella fattispecie il laboratorio di Roma sta un po' più in anticipo rispetto a quello di Napoli, anche perché il film da realizzare è più semplice, per cui io immagino, spero, che in autunno si veda il frutto del laboratorio di Roma, e penso all'inizio dell'anno prossimo quello di Napoli, e nel frattempo partiranno altri 2 laboratori che ancora non sappiamo dove li faremo, cioè, un altro sicuramente a Napoli, sul quarto ci sta la possibilità di farlo in Sardegna, in Salento o a Firenze o in Basilicata. Mm-hmm. Stiamo dicendo in questo giorni, insomma, stiamo capendo in questi giorni dove è meglio andarlo a fare. Okay. Senti, avete degli spazi internet per chi volesse saperne di più sui progetti? Guarda, ti devo dire la verità, ancora no, nel senso che sono un grandissimo lavoro io per organizzare il tutto, però poi su questi dettagli tecnologici non siamo ancora non abbiamo ancora capito quale sarà lo strumento migliore che utilizzeremo. Ok. E allora però raccontaci per esempio la presentazione di questa sera al Kino. La presentazione di questa sera al Kino, allora, parte dal mio libro, che tu ben conosci, hai fatto appunto anche delle presentazioni con me, parte dal mio libro che racconta tutta la vicenda di Gomorra, racconta il mio impatto con Scampia e la nascita dei laboratori. Quindi partiamo da lì, passiamo attraverso la visione di uno dei corti, quello che di solito mostriamo sempre, dei realizzati durante il laboratorio fatti già a Napoli durante Gomorra, e da lì prendiamo lo spunto per parlare dei nuovi laboratori, per cui la serata si organizza, cioè parte dal film, dal libro, per arrivare a raccontare quello che vi sto raccontando, cioè quello appunto l'idea che sta dietro ai laboratori. Bene. Gianluca, io ti ringrazio, un abbraccio, un in bocca al lupo e a prestissimo. Grazie a voi, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Produttore Gianluca Arcopinto sulla nascita dei laboratori del collettivo Mina di Scampia per la presentazione di quest'oggi, questa sera, al Kino qui a Roma, oggi giovedì 2 aprile 2015. E troviamo, ritroviamo anche Sergio Panariello, intanto ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa, Sergio. Infatti, ben ritrovato, ci sentiamo spesso per fortuna. Ci stiamo sentendo spesso, il che è una cosa positiva sicuramente. Grazie. Allora, con te questa volta per parlare, sempre in merito al tuo documentario Fuori Campo, però in questo caso legato alla giornata mondiale dei Rom e dei Sinti, che sarà l'8 aprile e prevede la proiezione del tuo documentario al Senato, ma in contemporanea c'è anche la proiezione in alcune librerie Feltrinelli sia del tuo lavoro che dell'altro di Stefano Liberti ed Enrico Parenti, Container 158. Allora, raccontaci un po' di questa giornata. Sì, credo appunto che sia importante questa cosa, che comincia il film, il documentario comincia a girare, di Stefano Liberti, che è Container 158, perché così insomma portarlo in questi contesti, che è tipo questo del Senato dove siamo stati invitati dalla Commissione dei Diritti Umani, ma anche in altri contesti in cui stiamo facendo le proiezioni, tipo molto più difficili come quello di Tor Sapienza o il 9 che faremo una proiezione a Napoli, a Via Cupa Perillo, che è un'altra zona dove lo faremo proprio in un campo Rom, dove praticamente c'è appunto questa, è un molto caldo pure per la situazione a Napoli rispetto proprio a questa idea del campo e del superamento dei campi. Quindi mi sembra fondamentale in questo momento l'idea di poter riuscire a veicolare un messaggio attraverso questo cambio di visione. Cioè, questo è uno strumento che ci permette poi di aprire un dialogo e aprire una visione, quindi questo mi sembra fondamentale in questo momento. Anche perché per la cronaca ci fu tempo fa quell'assalto a un campo nomadi proprio nel napoletano, insomma, che è stato ha fatto cronaca, insomma, è stato un episodio importante. Sì, perché purtroppo appunto quella è la cosa che quello che poi passa solitamente dall'informazione, per questo ti dico, per me risulta importante riuscire a dare un'altra visione delle cose, perché solitamente a livello mediatico ci si concentra su quello che è l'evento poi scatenato da dei pregiudizi, a volte che vengono fomentati ma non sono realmente fondati. Quindi ecco, per dire banalmente, l'idea che spesso si dice quando uno pensa ai Rom, dice i Rom rubano i bambini. Ora, questo pregiudizio che viene da cose che ci sono state anche, cioè, state persone Rom che hanno avuto famiglie Rom che hanno avuto gravi problemi e conseguenze rispetto a questa cosa, nel senso che sono stati indagati per questo, ma se si va a vedere poi tra gli atti della Cassazione non ci sta nemmeno un caso accertato, anzi ci sono casi in cui sono stati fatti gli esami del DNA, sono stati accertati che i figli erano i loro, quindi queste persone sono dovute subire tutta una serie di processi semplicemente per quello che derivava da un pregiudizio. A me sembra una cosa gravissima, a volte appunto che siamo riusciti ad accettare, cioè abbiamo capito siamo riusciti a capire l'antisemitismo, mentre invece l'antiziganismo è una cosa che ancora abbiamo difficoltà a renderci conto di quanto sia forte e radicato. Senti, questa giornata mondiale come l'avete fatta vostra in questa declinazione con le iniziative delle due proiezioni? Sì, questa è stata in realtà appunto la giornata, e questa giornata è stata decisa appunto come giornata internazionale di Rom e Sinti, quindi una cosa che è al di sopra di noi. In questa giornata siamo stati invitati nelle due, da tutte le situazioni, nel senso sia quella del Senato per aprire questo dibattito lì, sia questa situazione delle 10 Feltrinelli in giro per l'Italia, dove verrà proiettato la mattina per le scuole. Purtroppo non ci sarà la possibilità di essere presenti in tutte, ma sicuramente sembra un dibattito, abbiamo comunque dato insomma del materiale informativo di tutti e due i documentari per fare in modo che alle proiezioni si possa accompagnare insomma un approfondimento serio sull'argomento, perché poi vabbè, io in parte essendo arrivato dopo su questa cosa, ma ormai nel senso che l'idea del documentario nasceva da Osservazione, che è questa associazione che si occupa dei Rom, e quindi loro mi hanno aperto anche a me questa visione, no, del fuoricampo e dello spreco insomma dei campi, di come, quali sono le politiche che ci potrebbero portare al superamento dei campi in una politica sociale, e poi sarebbe proprio effettivamente la vera politica sociale, cioè comune, andare a vedere il reale bisogno delle persone e evitare lo spreco dei soldi sui campi. Quindi la cosa che sicuramente adesso a questo punto posso dire anch'io, e lo dico forte, è proprio l'idea della chiusura, chiusura dei campi Rom, avendo, perché sono delle situazioni segregative e praticamente dei ghetti etnici che vengono creati, e invece bisogna andare oltre e creare delle situazioni in cui chi ha realmente bisogno tra Rom, su questi soldi che vengono spesi per queste cose, possono andare invece in politiche sociali a tutti, a chi realmente ha bisogno, politiche dell'inserimento nelle case. Sì. Bene Sergio, allora ci dai qualche indicazione internet per la programmazione e i luoghi anche? Assolutamente, infatti adesso ci saranno varie proiezioni anche questo mese, come dicevo, pure qua a Napoli ci sarà l'asilo Filangieri, quindi tutte queste si possono trovare sulla pagina di Fuoricampo, quindi basta cercare Fuoricampo Storie di Rom nell'Italia di oggi su Facebook, oppure sul sito di Osservazione, che è www.osservazione.org, e lì si trova anche il calendario completo delle proiezioni e gli approfondimenti sul film, oltre a delle trailer, clip, cose, insomma un po' di materiale. Benissimo. Sergio, io ti ringrazio, a risentirci presto. Io ringrazio voi anche stavolta, e a risentirci presto, è stato un piacere. Anche per me. Un abbraccio, ciao Sergio. Ciao. Il regista Sergio Panariello sulle proiezioni in programma nella giornata mondiale dei Rom e dei Sinti il prossimo 8 aprile. E siamo in collegamento con Tayuf Listra, co-regista del documentario Maldarno. Ci sei? Sì, ciao, buongiorno a tutti. Benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Allora, intanto per chi ci ascolta, di cosa si tratta? Cos'è questo Maldarno che è stato presentato come evento speciale al Festival dei Popoli a Firenze? Ma diciamo che il film è un po' un omaggio al fiume di Firenze, all'Arno, ecco. E come è nato, come l'avete sviluppato? Allora, il film inizialmente doveva essere un documentario, diciamo, socio-antropologico sui renaioli e il loro antico mestiere raccontato da questi anziani testimoni. Attorno a questa idea iniziale poi abbiamo deciso di fare un progetto più eterogeneo che raccontasse un po' la vita del fiume anche attraverso la storia. Insomma, sappiamo che Firenze in qualche modo nasce intorno al fiume, all'Arno, e quindi attraverso i secoli si racconta anche con immagini iconografiche l'evoluzione che ha avuto il rapporto tra i fiorentini e il fiume. Ecco, che importanza chiaramente ha avuto storicamente l'Arno per Firenze, e come è cambiato nel tempo questo rapporto, Taiu? Ma diciamo, ecco, che l'Arno in qualche modo è stato anche molto, diciamo, cattivo con la città, con le alluvioni. Io diciamo che ho ripreso questa alluvione del 1333, che casualmente cade insomma il 4 novembre, che è la stessa data in cui poi nel 66 c'è stata di nuovo l'alluvione. Quindi abbiamo deciso di prendere le parole di questo cronista contemporaneo, insomma dell'epoca del 300, Giovanni Villani, e con la voce narrante di Maurizio Lombardi, questo grande attore fiorentino. Insomma, abbiamo messo le immagini del 66 e abbiamo raccontato un po' le analogie, ecco. Senti, dopo quella presentazione a Firenze, c'è modo di fruire di questo documentario? Sì, dunque, innanzitutto è in concorso ai Davide di Donatello, quindi insomma, vediamo un po' come andrà a finire lì. Poi ci sono delle trattative in corso con Sky Art per un'acquisizione, e quindi insomma queste sono le possibilità per il momento. Ecco. Mm-hmm. Oh, parliamo anche un po' dell'esperienza della vostra casa di produzione che ha realizzato questo ed altri lavori? Sì, dunque io ho questa società, si chiama Fusione Film, l'ho aperta nel 2004, è nata insomma questo desiderio di aprire una casa di produzione con questo primo documentario che ho fatto nel 2002 in Tibet, perché sono stato, io studiavo cinese alla Sapienza a Roma, e quindi il primo viaggio in cui sono stato a Pechino, poi sono stato attratto diciamo dal Tibet, quindi ho raggiunto questo paese meraviglioso, e lì ho fatto un pellegrinaggio che mi ha portato poi al Kailash, questa montagna sacra, e lì avevo questa piccola telecamera con cui ho fatto le riprese, e poi tornato a casa ho montato, e lì è quello insomma è diventato poi il mio primo film. Mm-hmm. E quindi da lì poi abbiamo aperto questa società, e prevalentemente abbiamo fatto documentari in Cina, in India, ho rifatto anche un pezzo sul Tibet, una serie sull'arte contemporanea, poi ho collaborato con La Storia Siamo Noi di Minoli, infatti avevo fatto anche un pezzo su Siena, sul Palio, e quindi io abito tra Firenze e Siena, quindi anche l'idea di poter fare dopo Siena un lavoro di approfondimento, di documentario su Firenze e il fiume, insomma era una cosa che mi piaceva molto. Poi c'è sempre questa tecnica che sto usando spesso della mongolfiera, insomma, che mi piace molto il concetto della mongolfiera, che è un po' come una spora che si sa quando decolla ma non si sa dove atterra perché è mossa dal vento, sì. Quindi non puoi intervenire sulla rotta, questo mi piace molto, ecco, come cosa. Ecco, tra arte e geografia un po' di indicazioni ce l'hai date, quali sono le caratteristiche che muovono i vostri interessi di produzione? Ma adesso mi sto approcciando alla mia opera prima cinematografica, che sarà comunque un progetto tra l'Italia e la Cina. Io appunto sono appena tornato da un viaggio, sono stato a Pechino, a Shanghai, ho fatto degli approfondimenti per questo programma che si chiama Community, che documenta gli italiani nel mondo, quindi abbiamo fatto insomma, raccontato delle storie di italiani che vivono a Shanghai e a Pechino, quindi insomma io ho una forte attrazione per la Cina, anche la mia trisnonna era cinese, quindi ce l'ho anche un po' come origine, e l'Oriente e l'Occidente sono comunque dei concetti che mi affascinano, quindi mi sto muovendo molto verso l'Oriente, ecco, come direzione. Senti, a questo punto ci dai dei riferimenti internet per seguire sia Maldarno che gli altri lavori? Sì, Maldarno si può vedere già un trailer su digitando Maldarno su Google, poi il mio sito Fusione Film aggiorna via via sui miei progetti. No, ci tenevo a dire ancora una cosa su Maldarno, appunto, che è stata questa coregia con Duccio Ricciardelli, lui ha avuto questa idea iniziale, e poi con Paolo Baldeschi lui ha dato un grande aiuto diciamo a livello iconografico, storico, insomma ha un valore importante il film, perché racconta veramente tanti secoli di storia nell'evoluzione, quindi il fiume è una metafora che racconta il fluire ma racconta anche appunto le trasformazioni. Ecco, proprio a proposito della ricerca storica, dove siete andati a cercare? Ma lì è una cosa appunto che ha gestito Paolo, parte tutto già da questa prima rappresentazione prospettica della città di Firenze, che è la veduta della catena del 1472, poi sono stati usati tanti dipinti del 7 e dell'800 che mostrano i lungarni, mostrano diciamo un Arno molto vitale con le feste, i fuochi d'artificio, venivano fatte delle vere e proprie anche rappresentazioni teatrali nel fiume, era molto vissuto, quindi quadri, fotografie d'epoca, mappe, è stata una ricerca molto lunga, ecco. Bene, dunque, allora i riferimenti ce li hai dati, speriamo a questo punto in una programmazione o passaggio televisivo o comunque anche una distribuzione di qualche tipo in sala. Sì, è già stato appunto, Firenze è stato un grande successo, il Festival dei Popoli, la sala era piena. è stato una grande soddisfazione, ecco, una grande emozione, perché insomma condividere anche con Firenze questo atto d'amore, chiamiamolo, insomma, verso la città e il fiume, è stato emozionante. Bene. Taio, io ti ringrazio, un abbraccio e alla prossima. Bene, grazie mille, a presto. Ciao. Ciao. Taio Flistra, coregista del documentario Maldarno. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15. I riferimenti li trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. Per comunicare con noi, indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Roberto Ruta, direttore della sesta edizione del film Middle East Now, che sarà a Firenze dall'8 al 13 aprile in più location. Roberto, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buon pomeriggio e grazie di avermi invitato. Allora, Middle East Now, il Medio Oriente ora. Ecco, raccontaci un po' le caratteristiche di questo festival, come è nato e come si è sviluppato. Allora, è un festival che è nato 6 anni fa qui a Firenze, nasce come un festival di cinema, ma non solo, è anche un festival di arti visive, fotografia, di cultura contemporanea a tutto tondo. Presentiamo chiaramente il focus sulla cinematografia contemporanea, che viene appunto dal Medio Oriente, dai vari paesi dell'area medio orientale, intesa dal Marocco fino all'Afghanistan, ma non solo. Vogliamo che il festival sia una piattaforma di presentazione di quella che è la creatività contemporanea, non solo cinematografica ma anche artistica a tutto tondo, e per questo, oltre appunto al cinema, al programma di 43 film, la maggior parte in anteprima italiana, abbiamo anche tanto altro: mostre, incontri, dibattiti, performance musicali e quant'altro. Bene, quindi una proposta articolata. 43 i film, le opere che presenterete, da quanti paesi del Medio Oriente? Ora, detta così, un numero netto non ve lo so dire. Però diversi, no, insomma. Tutti i paesi sono rappresentati fondamentalmente, anzi da quest'anno una delle novità di questa edizione è la presenza della Turchia. Fino ad ora non avevamo mai avuto dei film dalla Turchia, ma da questa edizione abbiamo pensato, insomma, che fosse importante in ogni caso includere anche la Turchia, che nei fatti non è mai propriamente inclusa nel Medio Oriente, comunque considerata un po' una soglia, un punto di passaggio verso il Medio Oriente. E abbiamo appunto pensato di comunque ripresentare anche il cinema turco, che sta, insomma, negli ultimi anni sta vivendo una fase di ascesa interessante, e lo facciamo presentando, concentrandoci soprattutto sul lavoro di una giovane regista turca che si chiama Emin Balci, che ha appena debuttato col suo lungometraggio alla Berlinale, che si chiama Until I Lose My Breath, e presentiamo questo suo film assieme al suo precedente lavoro, che è un documentario, Hik Libe Dik, che appunto è di 3 anni fa ed ha avuto un grandissimo successo internazionale. Facciamo un piccolo focus su di lei. Ecco, proprio a questo proposito, Roberto, ci sono aree tematiche relative al festival o dei fili conduttori che avete individuato? Il tema di questa edizione è il viaggio, traveling in the Middle East, cioè abbiamo pensato che il viaggio potesse essere un filo conduttore forte. Il viaggio ha un valore appunto forte, simbolico, universale. Viaggiare significa conoscere, approfondire di più di un paese, della storia, della cultura, della società, e appunto noi con il festival cerchiamo di proporre un viaggio cinematografico, ma non solo, anche un viaggio culturale a tutto tondo, un viaggio simbolico, un viaggio reale attraverso le voci di chi, degli registi, degli attori, degli artisti che in Medio Oriente ci vivono, e crediamo che la dimensione del viaggio sia davvero un paradigma importante per innescare quello che è un confronto culturale che con quest'area del mondo crediamo oggi più che mai sia importante avviare. Oltre al tema del viaggio, un altro filo conduttore è quello della presenza femminile, del fatto che ci siano a queste edizioni tante registe donne, tante storie al femminile, e crediamo che appunto sia complessivamente lo si possa riassumere questa edizione come un viaggio al femminile in Medio Oriente, quindi una, come dire, due contenuti, due prospettive molto forti. Ecco, ci dicevi in particolare della presenza di questa giovane cineasta turca. Sono previsti, è prevista la presenza anche degli altri autori? Sì, abbiamo oltre 25 ospiti, tra l'altro sempre per rimanere in tema di omaggio al femminile, questa edizione del festival rende omaggio a un'importantissima regista iraniana che si chiama Fatemeh Mohtamedharia, per i fan, ribattezzata dai fan Simin, è considerata una delle più importanti attrici del cinema iraniano degli ultimi due decenni, ha fatto oltre 50 film, ha avuto riconoscimenti sia in patria che all'estero, ha lavorato con tutti i più grandi registi iraniani ed è considerata una delle intellettuali più impegnate anche da un punto di vista sociale. Sarà protagonista del film di apertura di questa edizione, che è Tales, che è di un'altra grande signora del cinema iraniano, Rakhshan Ebani Etemad, che è appunto film che tra l'altro ha vinto il premio miglior sceneggiatura al Festival di Venezia. E l'omaggio a Simin Mohtamedharia si comporrà anche di altri, delle produzioni di altri due suoi precedenti film, che sono, un altro è il precedente capolavoro della regista di Tales, che si chiama Blue Veil, e poi presenteremo sempre con protagonista Simin Once Upon a Time Cinema di Makhmal Boff. Ecco, proprio a proposito di questa folta presenza di cineaste, qual è, se insomma puoi anche dircelo per sommi capi, e se l'hai individuato, un tratto comune di questa proposta al femminile rispetto alla cinematografia medio orientale? Senza dubbio sia le registi che le registe che le attrici, insomma, sono tutte delle figure molto impegnate nella società, e quindi anche raccontare storie talvolta difficili, comunque storie di cambiamento, storie che implicano una volontà di cambiamento e di aspirazione anche a un futuro migliore. Emerge da tanti di film e dei documentari che presentiamo, penso sempre dall'Iran, No Land Song, dove la protagonista è un documentario che racconta la storia della sorella del regista, che è una cantante iraniana che cerca di organizzare un concerto per sole voci femminili in Iran, e come mi immagino, insomma, potrete sapere, in Iran per le donne è proibito cantare in pubblico, e questo documentario è una storia incredibile che racconta di due anni di vicende, di lotte di questa cantante con l'istituzione, cercare di organizzare questo concerto. Questa è una delle storie dei film di questa edizione, ma ce ne sono tante altre, anche dal Marocco, The Narrow Frame of Midnight, il film che presentiamo nella serata speciale dedicata al Marocco, è comunque una storia di intensa, di un viaggio tra Marocco, Turchia e Kurdistan, in cui tre figure, tre protagonistici si incrociano per una, i destini di questi tre protagonistici si incrociano per un attimo, e il tempo che a questi basta per ognuno per migliorare il proprio destino, per cambiarlo. Ecco, tutte storie a mio avviso di cambiamento e di aspirazione a una vita migliore. Per la programmazione ci dai dei riferimenti internet? Il programma completo lo potete trovare, gli ascoltatori possono trovarlo su www.middleeastnow.it, ci sono tutte le informazioni, c'è il programma completo della parte cinema, ma anche degli eventi speciali, e a breve lanceremo anche un vero e proprio sito, sarà online un sito di preview con tutte le trame, una sorta di app dedicata al festival, che il cui indirizzo è preview.middleeastnow.it. Roberto, io ti ringrazio, un abbraccio e in bocca al lupo. Crepi, e vi invitiamo a Firenze per Middle East Now, grazie mille. Ciao. Roberto Ruta, direttore della sesta edizione del film Middle East Now, a Firenze dall'8 al 13 aprile. Con noi Andrea Bosca, regista del cortometraggio A tutto tondo. Andrea, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, ciao a tutti, ciao, grazie dell'invito. Allora, il fest era stato in programma al Festival di Roma, non ho avuto modo di vederlo, ma mi incuriosiva molto la storia e poi la presenza di attori e attrici che stimo e anche amici come Giorgio Colangeli. Andrea, raccontaci un po' di questo cortometraggio. Sì, guarda, noi col Movie Move, che è il Festival del Cinema Italiano nelle Filippine e in Thailandia, siamo andati 2 anni fa a questo festival nelle Filippine, a Manila. Poi grazie a Fabia Bettini, che è la nostra produttrice e l'organizzatrice di tutto, lì c'è nella città, e Fabia organizza anche Movie Move, siamo andati a fare un giro per, diciamo, Manila e i suoi sobborghi, e poi in un posto, perché lei aveva letto di un libro che poi è diventato anche un film, e quindi siamo finiti a Tondo. Tondo è una grandissima bidonville, diciamo, è una grande montagna fumante di spazzatura, dove la gente vive dentro alla spazzatura, in realtà, e ricicla le cose, sono comunità che cercano di sopravvivere in qualche maniera. E noi siamo stati, attraverso diciamo, la guida di Padre Carlo, a vedere questa comunità, che ci ha dato un senso sicuramente di grande famiglia, unione, anche in un momento di grande difficoltà, quindi, diciamo, immersi nella miseria, però una tale vitalità, una forza di vivere così grande, che mi ha spinto a dire: siamo tutti artisti, riconosciamo questa forza vitale e cerchiamo di portarla, di tradurla, in modo che possiamo restituire questa vitalità ai nostri spettatori, e i nostri spettatori possono dare una mano a queste persone, perché è legato a un processo, a un progetto di charity, per cui noi abbiamo raccolto dei fondi per la comunità di Tondo. Allora, io ho inventato questa storia di un ragazzo italiano che in qualche maniera si è obbligato a scontrarsi e a incontrare una famiglia, un gruppo di filippini che abitano a Roma, ma che hanno, poi dove scopriremo nel corto, un'origine molto vicino a Tondo. Senti, a proposito di questa realtà, sai più o meno di che dimensioni, con che dimensioni abbiamo a che fare? Quante persone sono abitano questa comunità? Ma io adesso le cifre non ne so di preciso, però a me sono sembrate 1 milione di persone, cioè il posto è sterminato. È molto grande, e comunque è molto sfaccettato, perché quello che abbiamo visto noi è solo una parte, tra l'altro anche bella tosta, cioè non c'è luce, non c'è acqua, corrente, cioè immaginate proprio per chilometri un posto così. Sì, ecco, e proprio è tosto. Proprio a questo proposito, Andrea, volevo chiederti come è organizzata la vita in una discarica così sterminata. Noi siamo stati ospiti di Padre Carlo, che ha una missione lì, per cui Fabia e Movie Move si sono collegati a lui, e lui ci ha fatto vedere questo centro in cui insegna ai ragazzi di strada a leggere e scrivere, a suonare la musica. È stato anche molto toccante, vi devo dire, anche molto commovente questo viaggio, perché in realtà noi subito, immaginate gli odori, la fatica anche di tutti noi ad andare in un posto del genere, metà delegazione voleva tornare a casa, io lo dico sempre, poi ci siamo stretti tutti, abbiamo fatto questa esperienza e abbiamo capito che in realtà era una lezione di vita molto forte, perché la vitalità di queste persone, negli occhi gli vedi una forza incredibile. Allora io volevo raccontarla e mettere tutta questa vitalità dentro a uno dei personaggi, che il mio personaggio, che io recito anche nel corto, come dire, conosco e incontro per la prima volta, che è questo Benjamin Marcellano, che è un attore, perché il mio corto, vedi, è fatto da un attore che si presta anche alla regia, che sono io, un attore filippino che lavora anche a Roma, che è Benjamin, e fa il regista anche di vari spettacoli filippini a Roma, e poi i suoi amici veri, che sono anche amici miei, cioè una famiglia, una famiglia allargata, perché sono anche più famiglie, di bambini, persone, nonne, amici di Ben, che passano con noi un pomeriggio. Però è chiaramente il mio personaggio, che vorrebbe star da solo perché ha avuto un lutto da cui non si riprende, sta scappando da un anno dalla morte della mamma, immaginate che voglia che ha di finire in una festa di filippini. E invece poi questa cosa in qualche modo lo obbliga a entrare in contatto con un mondo completamente diverso, con l'altro. E io credo che l'isolamento non sia una soluzione nella vita, perché ti porta a isolarti ancora di più. Credo che la condivisione, questo senso di famiglia, che tra l'altro l'Italia ha sempre avuto, perché la famiglia del secondo dopoguerra italiana è esattamente così, con gli stessi valori, penso che sia qualcosa che comunque aiuta. Poi io, sai, vengo dalla provincia, quindi lo sento molto vicino ancora a questo mondo. Mm-hmm. La mia famiglia è così. Senti Andrea, per poi la realizzazione del corto, come è andata con il coinvolgimento di attori più conosciuti qui da noi? Ma questo è stato una grande risorsa, perché quando abbiamo fatto questo viaggio alcuni erano presenti, Davide Jacopini era con me e anche altri. Poi amici del Movie Move che sono stati al festival, che sono amici, quindi la Paola Minaccioni, Giorgio Colangeli, Salvatore Striano che era con noi, ecco, alcuni c'erano proprio, altri hanno saputo del progetto, della bontà del progetto, hanno letto la sceneggiatura, hanno capito cosa volevo fare e quindi si sono prestati a essere parte della mia famiglia. Sono un cameo, tra l'altro preziosissimo, perché sono grandissimi attori che hanno così hanno deciso di fare una giornata di lavoro insieme. Tra l'altro il primo giorno di lavoro, sotto una pioggia battente che mi ha tolto tantissime ore per poter girare, ho dovuto fare la scena della mia famiglia che va a questa messa in ricordo della mamma. Quindi Giorgio Colangeli, mio padre, Paola Minaccioni, mia sorella, il fidanzato è Salvatore Striano, e poi c'è la voce del prete che è di Davide Jacopini, e poi ci sono altri nostri amici, Antonella Quartaroli, Serena Foddis, insomma, tutti quelli che potevano esserci a fare la mia famiglia, perché la mia famiglia in qualche modo nella storia ha accettato il lutto e cerca di andare avanti insieme. Invece il mio personaggio in qualche modo rifiuta questa condivisione, perché pensa che è meglio invece sfangarsela da soli. E quindi ti dico, quando loro hanno sentito la bontà del progetto, hanno capito che potevano fare una cosa bella, si sono abbandonati. Meno male che erano questi grandi attori, perché alla velocità con cui abbiamo dovuto girare tutto, quella scena, insomma, solo loro potevano portarla a casa così velocemente. Mm-hmm. E sono molto contento. Andrea, c'è la possibilità di visionare questo cortometraggio? Noi abbiamo fatto all'interno del Festival del Cinema di Roma delle proiezioni e ne faremo ancora. Adesso, come ultime novità, so che c'è questa c'è Busto Arsizio Film Festival il 23 di aprile, qualcosa, e poi vorremmo, proprio perché il progetto è un progetto charity, quindi vuole raccogliere fondi per Tondo, portare avanti queste proiezioni. Magari ci sono io, magari c'è Ben che è il protagonista della storia insieme a me. Quindi cerchiamo in qualche modo sempre di mobilitare, perché Padre Carlo, che è la persona, non Padre Carlo, ma la missione di Padre Carlo, dovrebbe ricevere qualche soldino in più, così che insomma aiuta questi ragazzi a studiare, a comprare i vestiti, non so, quelle cose lì. Senti, avete come progetto un sito internet di riferimento? Sì, vorremmo farlo. Adesso c'è comunque la pagina Facebook di Movie Move, chi è interessato può contattare Alice nella città, che è questa organizzazione che si occupa di cinema e di ragazzi su Roma e in tutta Italia. Quindi Movie Move, per quanto riguarda Facebook e cose del genere, è molto semplice, perché il logo è un campo nero e verde con la scritta Movie Move bianca. È a tutto tondo. Comunque noi ci trovate anche sui social e cercheremo sempre di postare ovunque tutte le proiezioni per far venire gente, per sensibilizzare sempre di più. Io per esempio non l'ho ancora fatta a Torino, che mi piacerebbe molto farla, di nuovo a Roma sicuramente, Milano, insomma le grandi città, appena riusciamo di nuovo a organizzarlo, beh, volentieri. Benissimo, Andrea, ti ringrazio, un abbraccio e alla prossima. Grazie. Io posso dire una cosa: stasera c'è la quarta puntata di La Dama Velata, se qualcuno voglia rivederla, una fiction molto bella su Rai 1, con Miriam Leone e Lino Guanciale, ci sono anch'io, e insomma vi aspettiamo numerosi. Pensa che Lino Guanciale venne tempo fa qui in radio, nella mia trasmissione di radioteatro, per fare un lavoro dedicato a Sanguinetti che aveva realizzato lui, uno spettacolo suo, insomma. Ah, bellissimo, tra l'altro lui è proprio un grande, siamo diventati molto amici, quindi venite, vedeteci stasera se volete, e chissà che non torniamo con un'altra cosa insieme, ce lo diciamo da un po'. Un abbraccio, ciao Andrea. Va bene, ciao a tutti, ciao ciao. Ciao. Andrea Bosca, regista del cortometraggio A tutto tondo. Ritrovato anche ad Emiliano Dante, regista del documentario Habitat, Note personali. Emiliano, come stai? Benino, bene, grazie, buongiorno. Bene. Tu come stai? Tutto bene, tutto bene. E ieri sera ho visto il tuo documentario, tempo fa noi ci eravamo sentiti per un altro lavoro sempre relativo alla zona dell'Aquila, quindi al post terremoto. Questo è in qualche modo è un proseguimento di quell'esperienza, ma raccontaci tu, Emiliano. Sì, le persone che ci ho coinvolte sono le stesse che vivono in tenda con me, quindi c'è una base in qualche modo di contatto diretto. Ci sono io, ci sono i miei compagni di tenda nel tempo, diciamo, dalla tenda del 2009 ad oggi, più o meno a novembre 2014, con tutto quello che è successo, in qualche modo come collegamento per quello che è successo all'Aquila, diciamo, abbiamo bisogno dell'Aquila dall'interno. Tra l'altro tra qualche giorno ricorrerà anche l'anniversario. Sì. Sì. sono 6 anni ormai. Sì, sì. Emiliano, com'è nata l'esigenza di riparlare a distanza di qualche anno dopo quel primo documentario? Beh, dato dal fatto che sinceramente la vita all'Aquila nel frattempo si è evoluta, è cambiata in modo molto significativo. Into the Blue, in qualche modo, che era il mio primo documentario fatto in tenda, andava a testimoniare un senso di resistenza a quello che ci è successo, una voglia di rimanere comunque vitali, di rimanere attivi rispetto alla situazione delle tende, rispetto a quel senso di completa trasformazione che c'era attorno. Habitat testimonia, diciamo, un cambiamento, una città non è più quella delle tende, è quella dei progetti case, è quella, come posso dire, che cerca in maniera incredibilmente faticosa e direi anche goffa in un certo senso, di tornare a una normalità che tutto sommato non c'è, ed è sempre più difficile ottenere in un certo senso. Parlando con gli amici tempo fa, la mia idea è che tutto sommato, la mia idea è stata che nel 2009, nel 2010 potevamo, non potendo essere normali, potevamo diventare qualcosa di straordinario come posto, come popolazione. Nel passare del tempo purtroppo invece si è cercato di avere una normalità a cui non si poteva aspirare. Mm-hmm. E in questa aspirazione frustrata c'è un po' il dramma della città, il dramma della vita all'Aquila, ecco. Uno degli elementi che mi ha più impressionato, per esempio, è la rispetto alle interviste che hai realizzato, una in particolare che fa riferimento al concetto di comunità. La comunità è quella secondo cui tu puoi camminare, ti dà la possibilità di camminare e incontrare casualmente persone che conosci, e questo nelle New Town non è dato. È una definizione di Antonello Circozzi, che è un antropologo aquilano, che anche lui era un ricercatore in Tendopoli con me. Secondo me è una definizione molto giusta, e paradossalmente era molto adatta all'Aquila delle tende, perché è una vita molto comunitaria, è totalmente inadatta, e testimonia il fatto che l'Aquila non è invece più una comunità, perché l'Aquila questo senso di pendolarità si è totalmente estinto, perché in tutti i casi hanno allargato il tessuto urbano in maniera impressionante. Adesso l'area urbana dell'Aquila è più grande di quella di Milano, pur avendo una popolazione molto più bassa, evidentemente siamo su 60.000 abitanti, ed è impossibile incontrare persone casualmente camminando. E questo è tanto più drammatico quanto più si pensa che L'Aquila è una città invece cresciuta con dei ritmi di provincia, dei ritmi in cui per cui la gente non era nemmeno più abituata a darsi appuntamenti, perché il centro storico era quello che aggregava le persone, si incontravano più o meno automaticamente camminando lungo il centro storico. Queste persone che adesso vivono a 15-20 km dal centro a raggio evidentemente hanno una difficoltà oggettiva a sentirsi parte di un qualcosa che non sia la loro casa CASA, cioè di abitazione, sì. più povero del termine. Emiliano, un altro dato è che un gruppo più consistente di persone, non arrivo a chiamarlo città, però insomma una folla di più ampie dimensioni si vede in sole due occasioni nel documentario, ossia nel centro commerciale e nella fiaccolata che ogni anno ricorda il terremoto. Sì, che in effetti sono due terzi delle occasioni di incontro, di momenti di cittadini. Il terzo che ho messo onestamente, ma l'ho messo perché è legato principalmente a una fascia di età ed è principalmente a dei giorni a settimana, il flusso del giovedì e dell'universitario del sabato sera che tende a riempire il centro di persone che bevono, ecco, ma è una frequentazione veicolata e in qualche modo circoscritta al consumo di alcolici, che è una caratteristica cittadina, un po' lo è sempre stata perché è un posto di montagna, quindi uno tende durante l'inverno a riscaldarsi, e un po' il terremoto in qualche modo radicalizzato questa tendenza. Io nel film chiaramente questa parte di movida non l'ho voluta mettere, perché secondo me riguarda solamente principalmente una fascia di età, che è quella che arriva a fine 30 anni, e gran parte delle persone del film non sono di quella fascia, sono un pochino più grandi. Una delle note tue personali, ma anche di altri personaggi che attraversano il documentario, è che è una nota tragica, che la città si sta dissolvendo. Come, scusami, non ho capito. È che la città si sta dissolvendo. Sì, si sta dissolvendo, si sta trasformando, chiaramente è difficile una città di ridefinizione, con problemi molto profondi di identità, perché anche l'identità che si è trasformata, anche come il senso di immaginare di se stessa, una città che si immaginava molto resistente, molto dura, molto tenace, si è trovata in realtà per forza di cose a non esserlo, una città che tendeva a pensarsi come autosufficiente, si è trovata chiaramente un'immagine illusoria di sé, ma si è trovata improvvisamente a essere totalmente dipendente, e quindi in qualche modo ha perso di orgoglio, ha perso di fisionomia, ha perso di forza, ecco. Ed in realtà secondo me in questo veramente forse Habitat, se vogliamo, è un film che ha un certo senso di lutto, forse, ma non è il lutto per L'Aquila prima del terremoto, è più un lutto per la possibilità che aveva L'Aquila dopo il terremoto. Nel senso, io ho avuto l'impressione che potevamo in qualche modo ridefinire un modo di abitare, ridefinire un modo di pensare alla città, e proprio non ci siamo riusciti. È stata una sconfitta totale. Ecco, questo aspetto focalizzato nei rapporti di coppia che si vedono nel tuo lavoro ha portato a implosioni ed esplosioni, per esempio, di rapporti anche consolidati? Beh, certo, il punto è che chiaramente i rapporti di coppia non prescindono, come tutti i rapporti, dallo spazio che si abita, che è lo spazio che si vive. E rapporti che si consolidano in un ambiente che è un ambiente fisico, ma anche evidentemente un ambiente affettivo, un ambiente culturale, un ambiente psicologico. Chiaramente le cambiamenti di questo ambiente possono soffrirne, possono mutare, per cui evidentemente anche nascere, gran parte dei rapporti, in realtà, rapporti che, di cui tratta il film, sono nati tutti dopo il terremoto. In realtà, ma il dopo terremoto è anch'esso è una fase cangiante. Il post-sisma non è uguale oggi. Non è oggi quello che era nel 2010, per capirci, che non era quello che c'era nel 2012. Il senso anche di appartenenza alla città è differente, il senso dell'abitare la città è differente, le cose stanno cambiando in qualche modo. E diciamo, in alcuni casi, alcuni rapporti che sono nati anche forse in modo affrettato, per il bisogno di ricostruire una vita affettiva in città, per esempio, sono un pochino con il male del tempo, non hanno detto, non hanno detto la pressione, non hanno detto i cambiamenti. Ecco. In gran parte per sé si deve anche ricostruire in qualche modo una vita. Nessuna delle persone che in parte del film fa lo stesso, in questo senso fa lo stesso lavoro che faceva prima del terremoto, per dire. E quindi questo evidentemente fa parte della riconfigurazione generale, che esiste ovunque, forse non esiste, chiaramente non esiste solo all'Aquila, ma in qualche modo all'Aquila, visto che è così visibile, visto che è così, diciamo, un momento così traumatico, e visto anche che in realtà è una realtà, la realtà aquilana è un pochino, tende a una stasi di fondo, la cosa tendeva a una stasi di fondo, la cosa forse più traumatica, cosa che o più drammatica, è senz'altro evidente. Oh, Emiliano, considerato che mancano pochi giorni alla ricorrenza del terremoto e che sono passati comunque dei mesi dalla realizzazione di questo tuo nuovo lavoro, com'è la tua città oggi? Che sta diventando? Musicente non lo so, è difficile darti una risposta su questo argomento, nel senso che ci sono molte gru, ci sono molti ponteggi, ci sono alcune anche edifici simboli del terremoto che sono stati buttati giù, alcuni sono stati, in alcune parti c'è stata della ricostruzione. È una città che ancora è di venire, è di venire qualcosa che di cui ancora non si rende perfettamente conto, non so come posso dire, anche perché l'immaginario degli aquilani resistenti, diciamo così, cioè di quelli che avevano tenuto a tenere duro dopo il terremoto, era un immaginario largamente conservativo, nel senso era il primo motto è stato come era dov'era, cioè ricostruire esattamente lo stesso posto, negli stessi luoghi, nello stesso modo, perché in qualche modo è un grosso incentivo. Nell'immediati attimi, dopo mesi, più che attimi, dopo la vicenda, chiaramente è anche utopistico e un po' fallimentare a lungo andare, perché chiaramente in realtà si ha come idea di rifiutare il trauma, di rifiutare il lutto, e quindi in qualche modo non elaborarlo. In realtà la città deve elaborare il lutto volente o nolente, e in qualche modo suo malgrado lo sta facendo. Ora non so cosa nascerà dopo questo, chiaramente non c'è chi rimarrà, è molto difficile vivere all'Aquila e fare programmi a lungo termine all'Aquila. Io stesso non so quale sarebbe il futuro da questo punto di vista. Emiliano, e Habitat come si potrà vedere prossimamente? Ma Habitat non ha una distribuzione per il momento, è distribuito a seconda di chi mi invita e di chi lo vuole vedere. Oggi siamo a Napoli, facciamo il cinema Astra alle 8, c'è l'unica proiezione napoletana per il momento. Poi sicuramente andiamo a Torino a maggio, ma ecco, abbiamo meno date di uno spettacolo teatrale. è difficile questo momento. Ho scritto molte distribuzioni, ma se ti dico che mi ha risposto solo una, scusami, che è Zalab, mi ha risposto scusandosi che non ha un modo di distribuirci da tutte quelle che ho scritto, insomma, chiaramente non è un buon non è un buon momento, forse non è un film anche molto commerciabile, ecco. Da questo punto di vista forse non ha un appeal straordinario sull'Aquila oggi, perché... anche perché è molto onesto e crudo, per cui ma devi vederlo per sapere. Di solito non si preoccupano. Tra l'altro hai citato l'Astra Napoli, che abbiamo anche avuto ospite, e Zalab, con cui ci sentiamo abbastanza regolarmente, quindi vedi, sì, il circuito documentario alla fine si ritrova sempre. Sì, no, poi Zalab ha avuto lo stesso, hanno fatto un film sull'Aquila, che hanno distribuito, hanno anche prodotto, non ricordo, sì, però avevano aiutato molto. Fatto, sì. Paolo Pisanelli, sì. Sì, esattamente. Emiliano, anche stavolta è stato un piacere. Anche per me. Io spero nuovamente di sentirti per delle novità riguardanti sia la tua attività documentaria che anche la città dell'Aquila. ci salutiamo, un abbraccio e a presto. Un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori. Allora. A presto. Ciao. Ciao. Emiliano Dante, regista del documentario Habitat, Note personali. E con questo concludiamo l'appuntamento settimanale con Visionari, il cinema su Radio Onda Rossa, il giovedì dalle 14 alle 15. Per tutte le informazioni vi rimando al sito internet della radio, ondarossa.info, alla voce trasmissioni Visionari, tutte le informazioni, idem sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.